So come buona abitudine allontano il microfono, qualcuno dal fondo non sente, mi fa un segno, perché o uno parla o uno tiene il microfono, c'è sempre un po' di difficoltà. Ringrazio innanzitutto la direttrice della biblioteca, Valeria Trevisan. Bolzano non è una città che io non conosco perché sono già stato qui 2 volte. In novembre e in marzo a presentare 2 libri della collana Mursia. Il primo era Prigioniero in Russia di Lelio Zoccai, il secondo erano 2 libri di mio padre Franco Pagliano dedicati all'aviazione. Io sono un giornalista aeronautico, uno storico militare e uno scrittore. Ho scritto circa 2000 pagine di storia dell'aviazione. In totale circa una decina di libri, ma nella mia vita professionale ne ho firmati altri 340, che non sono tutti quelli libri che io ho letto e che ho seguito, ma sono quelli che io ho scelto. Una delle clausole che ho posto all'editore Mursia, ma anche ai grandi saggi del gruppo Rizzoli, storico militare che curo, è che io firmo quello che condivido. Perché lo ritengo una scelta ben precisa. I miei libri non sono legati a dei contenuti politici, ma richiedo determinate caratteristiche che poi vi indicherò. Bozzano la conosco bene anche perché ho abbastanza bene, perché all'inizio degli anni 90. Io sono venuto qui con un incarico, c'era una società di Verona, l'Aeroveneta, che aveva vinto un appalto per l'elisoccorso in tutto l'Alto Adige. Il mio compito era quello di stare a fianco di un esponente locale per dargli una serie di indicazioni su come operare con il mondo della stampa, non solo locale ma a livello nazionale. E in uno dei giorni in cui avevamo, io ero qui abbastanza spesso, specialmente nella fase iniziale, durante un momento di intervallo ho chiesto, questo era un giovane molto in gamba, dice, senta, ma come sono i rapporti tra i due gruppi linguistici? E lui mi ha risposto in un modo molto intelligente. In città, e se sono giovane, i problemi sono pochi, ma man mano che si sale di età e di quota nelle valli, i problemi aumentano. E questo tipo di indicazione mi è servito per fare una scelta l'anno scorso. Io non vi parlerò del contenuto del libro perché c'è l'autore, lui l'ha scritto e lui lo presenta, lo conosce anche molto meglio di me. C'è Hans Heiss che ha fatto non una presentazione, ma ha fatto un preambolo lungo come un capitolo, che era esattamente quello che volevamo. Quando io ho chiesto a Baratter a chi lo facciamo fare, io non gli ho chiesto di scegliere un professionista, perché il professionista o la professionista dipende dal mestiere che fa. Io gli ho chiesto scelga una persona seria. Non vi parlo del libro, ma vi parlo dei criteri che stanno alla base della scelta di un libro. Faccio un'altra premessa molto semplice. Le valutazioni di carattere editoriale credo che siano condivisibili dall'editore, ma le valutazioni di carattere storico-politico vanno attribuite esclusivamente a me. Io ogni anno leggo mediamente 100 testi. Di questi 100 testi io ne scarto 90. E nel 2003, nella postfazione al primo libro di mio padre, che ho ristampato dopo 40 anni, ho scritto, e ve lo leggo molto rapidamente, quali sono i criteri che io chiedo a tutti gli autori. Tutti quelli che si interessano di storia, docenti di vario livello, ricercatori, giornalisti, scrittori o semplici appassionati, hanno avuto e hanno la possibilità di scrivere un libro. Ma avere la possibilità non significa automaticamente averne anche le capacità, soprattutto se si richiede onestà intellettuale, elemento fondamentale per offrire al lettore un equilibrato strumento di consultazione. Molto dipende dalla conoscenza della materia, dalla scelta delle fonti, dalla capacità di analisi e di sintesi, dalla volontà di non alterare la realtà, selezionando e descrivendo e non omettendo volutamente gli eventi importanti della loro successione. Infine, rispettando sempre un principio valido per il mondo del giornalismo e dell'editoria. Prima sempre i fatti, poi eventualmente le opinioni, comprese quelle personali, e aggiungo se ci sono, perché spesso i libri vengono fatti senza avere un obiettivo preciso. Io aggiungo poi un'altra cosa che, proprio in base a questa esperienza di ormai 40 anni di attività in editoria, io ho cominciato a metà degli anni 60 con l'attività giornalistica e nello stesso tempo con l'attività editoriale, poi la parte giornalistica dopo 20 anni è diminuita, è rimasta la parte editoriale. Attenzione però a una cosa importante, chi fa giornalismo in editoria ha due sistemi diversi di lavorare, gli elementi comuni ci sono, ma mentre nel giornalismo sono 40 righe e 40 righe devono essere, nell'editoria si ha la possibilità di dedicare molto più tempo, spazio, valutazioni a qualunque tipo di fenomeno che si analizza. E quindi si ha più tempo anche di dimostrare determinate tesi. Ma i due elementi messi insieme permettono di fare la leggibilità del libro, perché la cosa fondamentale è quella. Io continuo a dire, e lo dico spesso, ci sono due modi per fare i libri. Uno è scrivere per se stessi, uno è scrivere per gli altri. Per se stessi può essere un ricordo o un qualcosa, per gli altri no. Per gli altri bisogna spiegare, e per spiegare bisogna avere qualche idea chiara in testa. Se non si fa questo, il libro non funziona e non si vende. Ho detto che la prima frase che io scrivo, che ho scritto dietro la mia scrivania a caratteri cubitali a Milano dove lavoro, è che la storia non è uguale per tutti. La seconda l'ho aggiunta il 4 novembre del 2004. La frase "battersi per la verità non è revisionismo" ed è stata pronunciata a Trieste durante un'intervista al TG1. L'intervistato era Luciano Violante, capogruppo dei deputati di S al Parlamento italiano. Aggiungo però una cosa. Nella mia professione, se io non ho un revisore, cioè uno che rivede costantemente tutto, io non lo voglio come collaboratore. La parola revisionismo, per quanto mi riguarda, non fa parte del mio vocabolario. In modo un pochino più pragmatico, il mio metro di valutazione è, ed è anche la mia linea di confine, è fra chi ha raccontato favole e chi no. Ecco il motivo per cui, a distanza di tanti anni, il settore storico saggistico continua a vendere. Non parliamo dei fenomeni fallaci, pansa, eccetera. Oggi un libro di saggistica che vuole andare sul mercato nazionale viene tirato tra le 2.000 e le 3.000 copie. Questa è la realtà. Il piccolissimo editore ne tira 500, il piccolo editore ne tira 1.000. Se noi facciamo fuori, cioè vendiamo, non regaliamo, non facciamo omaggi, vendiamo 2.000 copie in meno di un anno, attenzione, non per quel libro, ma per tutti i libri della collana che escono, noi possiamo essere non contenti, ma molto contenti. E vi ripeto ancora, se i libri di storia moderna e contemporanea vanno, è perché probabilmente qualcuno ha voglia di sapere le cose come sono. E soprattutto perché molti episodi sono stati letti attraverso la lente distorta della faziosità o dell'ignoranza. Attenzione, io sostengo da tempo che la faziosità portata agli estremi livelli è indice di mancanza di equilibrio e anche di maturità. Il resto lo lascio andare, ma bastano soltanto questi due elementi. Aggiungo anche che siamo nel 2005 e quindi io posso capire tutto, ma nel 2005 bisogna avere anche il dovere morale di affrontare gli argomenti in un modo non più distaccato, ma più, l'abbiamo detto prima, onesti sul piano intellettuale. La casa editrice Mursia, che nel 2005 ha celebrato i 50 anni della fondazione, ha varie collane. In particolare però io mi occupo da 5 anni, con quella clausola che vi ho spiegato, della collana testimonianza. Io pubblico mediamente un libro al mese e in questa collana testimonianze dobbiamo ricordare il libro che è stato capostipite nel 1963, che era una cosa che probabilmente molti di voi hanno letto, ce ne sono tirati 3 milioni di copie ed era Le 100.000 gavette di ghiaccio di Giulio Medesco. In questa collana noi possiamo dividere le cose in due parti. Per semplificare, chi c'era e chi non c'era. Chi c'era era un testimone o un protagonista diretto, chi non c'era è chi non aveva l'età e chi quindi fa il ricercatore. Se a chi c'era, da qualunque parte sia stato, posso capire, posso scusare qualche imprecisione, qualche eccessivo animus alla latina, non lo posso scusare nel ricercatore. Perché il ricercatore deve fare divulgazione, non si deve fare influenzare anche dalle politiche che ha. Ci si riesce sempre comunque, ma il problema del libro, per farlo leggere a tutti, è quello di permettere al lettore di guardare i fatti e poi a un certo punto di arrivare a una conclusione che potrebbe anche essere diversa dalla tesi o dall'opinione che l'autore sostiene, se lo sostiene. Ci sono dei libri che sono soltanto fattuali, altri che riportano l'opinione. E Baratter, sulla base di quelle indicazioni che vi ho dato, appartiene al secondo filone. Io quando ho ricevuto la sua proposta editoriale, ho come sempre letto la prima cosa che si legge per uno che fa analisi di prodotto, la bibliografia, capire a chi si affida. Poi l'introduzione, poi l'indice. E evidentemente la suddivisione in capitoli permette di capire dove vuole andare a parlare. E l'argomento e la struttura del lavoro di Lorenzo Baratter mi hanno convinto. E a questo punto interviene per prassi una mia collaboratrice, che ha un compito molto preciso. I Marines li chiamano operazione Recognition, io la chiamo operazione Scout. Questa signora, che ha qualche anno meno di me, ma non molti, quindi ha una buona maturità, non perché ce l'ho io la maturità, ma perché ce l'ha lei, ha un compito. Io le chiedo, vada a capire se l'autore accetta consigli. Se l'autore le dà l'impressione di accettare i consigli, lei gli dà il mio numero di telefono, se no ci fermiamo lì. Perché, lo dicevo questa mattina alla direttrice della biblioteca, il fisco italiano, come il fisco di tutti i paesi, è severissimo, ma guarda caso, nei confronti del curatore, che sarei io, dà le stesse facilitazioni dell'autore. In pratica è un 25% per fatica intellettuale. È chiaro questo, una cosa che più in gamba l'autore e meno fa fatica il curatore. Però, ripeto ancora, li mette sullo stesso piano, con lo stesso tipo di contratto e con lo stesso tipo di facilitazioni. Ora, se l'ha capito il fisco, che sta attento dove può pelare e pela, vuol dire che probabilmente c'è una piccola parte di vero. Una piccolissima parentesi che può essere utile per capire, ma com'è la situazione dell'editoria in Italia negli anni 2000? Io direi tragica, tragica per un dato. Nel 2003, sono i dati disponibili, i libri pubblicati in Italia tra prima edizione e edizione successiva e ristampe sono stati 53.000. Pensate al lavoro di chi fa, vende i libri e di chi deve fare la biblioteca. Per quanto selezione faccia, c'è da spararsi. Le novità sono il 62% circa. Un libro su quattro è tradotto da lingue straniere. Nello stesso periodo, circa 23 di milioni di italiani al di sopra dei 6 anni hanno letto almeno un libro, sia il 41%. Ma qui sballa completamente, perché io ne leggo 341 o 200 o 100. Molti di voi, se sono qui, ne leggeranno più di uno, e quindi voi capite che il 41% è una cifra falsa. Sono molto, ma molto meno. Siamo fra gli ultimi in Europa. Altra suddivisione utile per capire, i piccoli editori sono quelli che pubblicano all'anno da 1 a 10 titoli, quelli medi da 11 a 50, i grandi da 50 in su. Ma attenzione, un altro dato interessante è questo. I quattro agglomerati, chiamiamoli agglomerati, sono i grandi gruppi, cioè Mondadori, Rizzoli, Di Agostini, Utete e Longanesi, assieme a un'altra quindicina di grandi gruppi e un'altra quarantina di dimensioni medio-grandi, controllano il 90% del mercato. Quindi il numero è 60-70 contro quell'indicazione che vi ho dato prima, che è follia. Se vediamo la produzione per argomenti, in testa troviamo avventura, gialli, fantascienza 28,1 in percentuale. La storia, in senso lato, in cui entra anche la storia in senso più stretto, è il 10% circa. Altro dato significativo e tragico, perché non è che questo significhi maggior diffusione di cultura solo sulla carta. Nel 2003 le case editrici erano 5.281 in tutta Italia. In testa la Lombardia con 1.218, il Trentino Alto Adige era a metà classifica sulle regioni con 127. Le librerie in Italia erano 1.827, sempre in testa la Lombardia con 366, il Trentino Alto Adige ne aveva 38. Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche, sempre nel 2003 sono gli ultimi dati proponibili, erano 15.787, prima la Lombardia con 2.940, l'Alto Adige ne aveva 403, che è un dato molto importante, perché voi dovete fare non soltanto un valore assoluto, ma della popolazione, e quindi voi vedete che qui si legge molto di più e si è organizzati per far leggere molto di più che da un'altra parte. Se qualcuno chiedesse, ma il lavoro in editoria è impegnativo? Direi sì, ma è anche molto divertente. Io ne ho visti di tutti i colori, di tutti i tipi. Sul piano delle traduzioni, non molto tempo fa, non dico né il peccato né il peccatore, dico il fatto, c'è un libro che parla di un tiratore scelto dei Marines durante la prima guerra del Golfo. E a un certo punto il traduttore scrive, il caporal maggiore prese il fucile, la borraccia, il compasso e si avviò verso le sabbie del deserto. Era chiaro che la battuta immediata che mi è venuta, sì, col righello, le formine, il secchiello, la paletta. In inglese, compass e bussola. E quindi è comprensibile che uno abbia preso la bussola per andare nel deserto. Il compasso un pochino meno. Ma lo stesso traduttore ne ha combinato un'altra molto bella. A un certo punto io mi trovo, facendo riferimento a operazioni internazionali, la rivolta dei pugilatori. Poi mi è venuto in mente che cosa era. Qualcuno sorride, quindi ha già capito. Qualcuno ha trovato la rivolta dei boxer del 1900. Ha letto Boxer, ha tradotto pugilatori e ringraziamo il cielo che non abbia fatto la rivolta delle mutande, perché voi sapete che si chiama così. E una cosa folle, probabilmente questi erano dei traduttori molto giovani che non hanno visto un bellissimo film, bellissimo come scena, che era 55 giorni a Pechino, che forse qualcuno, vista l'età, potrebbe anche ricordarsi. Ma uno degli esempi più incredibili è un altro, che è legato al fatto del seguire dei criteri molto rigidi. Una persona di grande cultura meridionale mi propone un libro su un campo di concentramento, dal 40 al 47, e con estrema precisione va a cercare i suoi documenti e riporta tutti i nomi delle persone che sono passate in quel campo. Prima erano gli inglesi, poi erano gli jugoslavi, poi gli ebrei, poi capita l'8 settembre e ci vanno dentro i fascisti, i collaborazionisti, eccetera. E poi arriviamo nel 47 e fa un elenco di un certo numero di persone. Ma questo professore non si rende conto che nel 47, in questo campo di concentramento, ci avevano messo dentro le signorine, cioè le prostitute. E a questo punto io ho dovuto ricordare al professore, dico, senta, io capisco il massimo della precisione delle cose, ma lei si rende conto che può darsi che questi abbiano dei figli o dei nipoti? Guarda cosa faceva la nonna o meno. Ed è chiaro che questa è stata tolta. Questo però ve lo dico perché nel fare i libri bisogna anche un po' usare la testa, nel senso che è anche un pochino il cuore, perché altrimenti capitano, ripeto, incidenti di questo tipo. Ho già detto all'inizio che io mediamente analizzo 100 proposte editoriali, non solo di Mursia, ne scarto 90. Come battuta vi posso dire che quando mi metto a leggere i testi chiudo la finestra, perché in alcuni casi quello che viene presentato da persone assolutamente paludate o da direttore di dipartimento di università è al di sopra dell'immaginabile. Uno dei 10 titoli di quest'anno è Le Dolomiti del Terzo Reich e l'ho scelto proprio con assoluta convinzione. Io vi suggerisco solo di leggere 2 punti. Il libro si legge, non è facile, è un libro impegnativo, è un libro che è costata molta fatica e molto impegno a Lorenzo Barattar. 2 parti. La bella idea di Ettore Tolomei, improvvisamente, dopo l'acquisizione del territorio all'Italia, di andare a tradurre o letteralmente o a spanne tutti i nomi tedeschi. Direi che è una pagina comica, se non fosse tragica, perché qualcuno non ce l'ha creduto, perché andare ad affidare un compito di quel tipo in quella maniera non è soltanto questione di essere a Bolzano, in Alto Adige, da qualunque parte del mondo era una follia. E particolare attenzione merita il capitolo su Via Rasella. Si è detto molto, voi leggetelo, ma dov'è la novità? La novità è che Lorenzo Barattar fa un parallelo tra quello che è avvenuto lì e quello che è avvenuto da un'altra parte. A Praga, nel maggio 1942, quando un gruppo di comando che era stato addestrato in Inghilterra, di cecoslovacchi, ha gravemente ferito e poi è morto Heydrich. E è una delle pagine più efficaci, la valutazione per la prima volta è quella di fare 2 paragoni fra 2 comportamenti diversi. Qui non è questione di dire sbagliato o giusto, io non entro nel merito, la mia opinione l'ho già espressa in molte altre sedi, però leggetelo, ma leggete anche un'altra cosa, andate a leggere le note. E allora vi accorgerete che nelle note c'è anche un passo in avanti. Barattar ha l'età per fare un libro di grande intelligenza, non ha l'età per farsi influenzare. E nelle note lui dice un'altra cosa, ma un momento, qui abbiamo fatto questo paragone, ma a Milano si dice che sono stati appesi tutti a testa in giù, i gerarchi, Mussolini, eccetera, per vendicare una rappresaglia. Ma ci fosse uno, compreso il sindaco di Milano, che non è uno di Rifondazione Comunista, che avesse spiegato rappresaglia di che cosa? C'è una causa e c'è un effetto. La rappresaglia è che qualcuno un giorno a Milano gli è venuto in mente di mettere una bomba fra la verdura di un camion che regalava, per motivi evidentemente di propaganda, alla gente. Non si è capito quanti sono i morti, ma Baratter dice è come se avessero messo una bomba al supermercato. Ma la cosa più incredibile qual è? Che è stata una tale, mi permettete il termine, fesseria, che nessuno se ne è presa la patente. Tutti noi sappiamo chi è stato a dare l'ordine. Ma in quel caso è stata talmente cretina la cosa, perché non era qualcuno che aveva torturato dell'SS, erano due persone, due tedeschi sembrano. Dei morti italiani non si capisce quanti siano. Allora, non è onesto, lasciamo andare il giudizio della storia, l'ha già dato, ma non è onesto andare a dire sì, li hanno attaccati in rappresaglia perché non ne hanno ammazzati 15, ma andiamo a beccare la persona che gli è venuta in mente di mettere una bomba in mezzo alla verdura, per cui cosa hanno fatto fuori? Non hanno fatto fuori né gerarchi fascisti né gerarchi nazisti, così come dice lui, perché era un luogo che notoriamente non era loro frequentato. Ecco, questo tipo di analisi, messo poi in nota, che vi dice semplicemente, vi ricordo anche questo, dimostra un distacco, ma anche un'onestà morale, che non si trova molto facilmente. Il libro sta andando molto bene. Noi abbiamo detto che abbiamo tirato 2000 copie. Dopo 15 giorni, abbiamo visto quest'oggi qui, ma in tutta la valle, merito suo e merito anche dell'operazione di propaganda di Hans Heiss e di tutti coloro che hanno considerato questo prodotto un prodotto importante, credo che noi arriveremo molto presto ad avere una ristampa, non so quando, ma ripeto, è un libro che merita. Grazie. Sentire queste belle parole da un editore particolarmente affermato come Maurizio Maliano sicuramente è molto interessante. Parlare di fatti e non opinioni, naturalmente per noi politici, dottor Heiss, wahrscheinlich è una Gesetzwidrigkeit probabilmente, ma sentircelo dire naturalmente da autorevoli personalità fa piacere e soprattutto ci fa fare un esame di coscienza. Sentir parlare di equilibrio, di maturità è altrettanto molto pertinente. Non posso che esprimere naturalmente un ringraziamento per la sua presenza, per quello che ci ha voluto dire questa sera. Sicuramente vorrei salutare il collega dottor Heiss, che non solo per attività professionale è particolarmente noto in questa provincia, ma con lodevole attività e militante sul campo merita particolare encomio. Saluto cordialmente anche l'autore e lo ringrazio per quanto ha voluto questa sera dirci con il messaggio di questa sua opera. Sentiremo dalle sue parole naturalmente quello che vorrà con la sua bocca trasmetterci. Grazie a tutti voi per essere intervenuti, auguri di buon Natale in anticipo se non avrò occasione di potervi vedere, una buona fine e buon principio. Grazie. Grazie. Voglio Innanzitutto ringraziare tutti i presenti per aver deciso di partecipare a questa serata. Un ringraziamento doveroso alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, in particolare alla dottoressa Trevisan, per aver dato un contributo speciale nell'organizzazione di questo evento, un contributo unico per il quale le sarò sempre grato. Sono riconoscente a Maurizio Pagliano, che ha parlato poco fa, salito da Milano per questa importante occasione e per aver riposto fin dal principio grande stima e fiducia nel sottoscritto. Non posso mancare di ringraziare Hans Seiss per avermi onorato della sua prefazione. Grazie al suo contributo il mio lavoro assume un prezioso valore aggiunto in termini di equilibrio e anche di onestà intellettuale. Voglio poi ringraziare l'amministrazione provinciale, in particolare l'assessore alla cultura italiana, per aver dato risalto all'incontro di questa sera. La sua partecipazione sottolinea l'importanza del sostegno istituzionale a ogni nuovo contributo teso ad allargare la conoscenza della storia di questa regione. Chiedo scusa se faccio riferimento a un testo scritto, ma credo di essere più bravo a scrivere che a parlare, quindi ho preferito avere un riferimento, anche per evitare di dimenticare delle parti interessanti che vorrei riferire in questa occasione speciale. Le Dolomiti del Terzo Reich è un libro scritto rispettando alcuni principi che mi stanno a cuore e che ho cercato di tenere presenti durante tutta la stesura. Equilibrio, onestà intellettuale, metodo storiografico rigoroso, rispetto e attenzione verso l'utente finale, il lettore. Che cosa significa rispettare il lettore? Significa, per colui che scrive, immedesimarsi nella persona che leggerà il libro, non dare nulla per scontato, rendere cioè il testo al tempo stesso semplice e rigoroso, permettendo a chi legge la possibilità di risalire alle informazioni riportate. Ho inserito più di 500 note a margine del testo, non solo per una questione metodologica, ma soprattutto per rendere accessibili a tutti le fonti delle informazioni riportate. Per fonti intendo archivi, testi, siti internet, pubblicazioni, interviste e via dicendo. Curare un apparato di note così ampio, e poi controllarlo ovviamente, comporta un supplemento di lavoro di varie settimane. Il risultato finale garantisce però un servizio rigoroso e trasparente nei confronti della ricerca e anche di chi andrà ad acquistare il libro. Il lettore deve pretendere, giustamente, di avere un prodotto serio, rigoroso, attendibile. Provo sempre una certa diffidenza nei confronti di libri sprovvisti di note e di bibliografia. È come un prodotto senza l'indicazione degli ingredienti, non si sa esattamente cosa c'è dentro. Un libro come questo non si costruisce in pochi mesi, vive diverse fasi. Per almeno 4 anni ho letto il più possibile sul tema, ho cercato di incontrare i protagonisti, mi sono confrontato con altri storici, ho svolto ricerche d'archivio. Poco più di un anno fa è venuto l'incontro con Mursia. Dalla nostra collaborazione è nato un volume che è il primo a raccontare a livello nazionale, su tematiche così estese, la storia della regione nella prima metà del Novecento. Lo scopo di questo libro è sicuramente divulgativo. È stato scritto con l'idea di raggiungere il pubblico più esigente, ma anche il semplice appassionato, lo studente come il ricercatore. Per me è un motivo di orgoglio, a poco più di 30 anni, essere riuscito a pubblicare questo libro con una delle più note case editrici italiane, all'interno di una prestigiosa collana storica che da anni offre testi fra i migliori sul mercato. È oggi un ulteriore motivo di soddisfazione se ripenso a me, poco più che bambino, immerso nelle letture di saggi stampati nell'inconfondibile stile di Mursia. So che questo libro rappresenta per me una grande occasione. Voglio tuttavia affrontare questa opportunità com'è nel mio spirito e nel mio stile, con l'umiltà e la semplicità che mi contraddistinguono. Non posso però fare a meno di ricordare che Le Dolomiti del Terzo Reich è un libro che nasce dopo lunghi e intensi anni di ricerche, sacrifici, letture, viaggi, studi di archivio, interviste, contatti, confronti. Non poteva essere diversamente, visto che l'obiettivo è sempre stato quello di realizzare una pubblicazione ai più alti livelli di contenuto. Il tutto condotto nella volontà di comprendere un pezzo di storia sul quale la ricerca, a mio avviso, deve compiere ancora dei passi importanti. La volontà di capire questo capitolo della nostra storia regionale era nata in me, evidentemente, perché non ero soddisfatto di quello che era stato fino ad oggi scritto. Non mi riferisco solo alle reticenze, ma anche alle ricostruzioni parziali o peggio ancora di parte. Ho sempre notato la mancanza di un testo capace di dare una visione globale di quegli anni per tutto il contesto regionale, con un linguaggio semplice, immediato e completo allo stesso tempo, in un'ottica non solo locale, ma aperta ad una visione nazionale ed europea. Spetterà solo ai lettori dire se questo risultato è stato raggiunto. Il mio metodo è stato quello di condensare in un lavoro analitico le tante risorse e informazioni che la ricerca aveva messo a disposizione in questi anni, anche se spesso in modo disgiunto. Ho cercato di rielaborare il tutto con spirito critico, colmando le lacune ancora aperte con nuovi approfondimenti. Sono in ogni caso riconoscente a tutti i ricercatori che in questi anni hanno studiato e pubblicato informazioni su questo tema e che non sempre hanno avuto l'opportunità di poter pubblicare i loro lavori con il risalto che può avere questo libro con una casa editrice nazionale. Voglio dire che il valore aggiunto di questo libro è il risultato dell'incontro con Maurizio Pagliano, professionista di grande spessore ed esperienza pluridecennale con una invidiabile conoscenza del mondo editoriale, che lo pone ai livelli più alti nel panorama nazionale. Mi permetto di ricordare che egli ha curato e continua a curare numerose opere di importanti autori internazionali edite in Italia. L'unione delle nostre forze ha favorito la nascita di un clima molto edificante, in cui sono venuti a fondersi con entusiasmo i risultati dei miei studi sull'argomento e i suggerimenti di elevato profilo garantiti dal consulente nella delicata fase di redazione del testo. Credo che tale esperienza sia stata per me di grande insegnamento e la considero una scuola ai più alti livelli. Di questo sarò sempre riconoscente a Maurizio Pagliano. L'unione di due forze così dirompenti ha favorito la nascita di un testo che tra i suoi obiettivi più importanti ha quello di far pensare, ovvero suscitare profonde riflessioni in chi legge, privilegiando la narrazione dei fatti e lasciando al lettore la formulazione di un proprio giudizio personale. Le Dolomiti del Terzo Reich vuole dare una dimensione ampliata degli avvenimenti regionali, in senso spaziale e temporale. Spaziale perché il contesto è pur sempre inserito in un quadro di più larghe vedute, voglio dire europeo. Temporale perché il biennio 1943-1945 non poteva essere spiegato senza solide premesse inerenti le tematiche dell'esperienza asburgica e del primo conflitto mondiale, del fascismo, delle opzioni e del continuo contrapporsi di nazionalismi che ha pervaso e caratterizzato la storia di gran parte del secolo scorso. Voglio brevemente riepilogare in sequenza i temi trattati nel libro: l'esperienza asburgica nella regione, il primo conflitto mondiale, il fascismo, le opzioni, la lunga estate del 43, la nascita della zona di operazione delle Prealpi, il sistema di repressione nazista, i tribunali speciali, il servizio di guerra imposto da Franz Hofer, la vicenda di Via Rasella, i rapporti fra l'autorità dell'Alpenvorland e la Repubblica Sociale Italiana, il comportamento della Chiesa Cattolica durante l'occupazione germanica, la storia del Polizeiregiment Brixen, che non giurò a Hitler, i bombardamenti, il destino degli ebrei, il progetto dell'ultimo baluardo nazista sulle Alpi, per concludere con gli accordi di Gasperi Gruber del settembre 1946. Il lavoro è stato arricchito dove necessario dal prezioso consulto con storici di grande spessore. Penso ad esempio ad Achille Rastelli per quanto riguarda il capitolo sui bombardamenti che ho intitolato Morte dal cielo. Achille Rastelli, storico militare di primo piano, è autore per Mursi di un ottimo saggio sui bombardamenti a Milano e in Lombardia durante il secondo conflitto mondiale. Il volume, curato da Maurizio Pagliano, si intitola Bombe sulla città, gli attacchi aerei alleati, le vittime civili a Milano. Ritengo che la capacità di uno storico si possa misurare anche nel suo coraggio, nella sua passione e nella sua onestà. Questo in alcuni casi può comportare la rottura di certi schemi apparentemente già collaudati. In ogni caso lo storico ha il dovere morale di cercare la verità, di portarla alla luce, di divulgarla. Questa breve riflessione è per dire solo due parole su Via Rasella, che è uno dei capitoli più interessanti dei 16 che compongono il libro. Una delle più prestigiose e equilibrate riviste di storia moderna e contemporanea, presente col proprio sito in internet, ha pubblicato in questi giorni un'ampia recensione del volume che siamo qui a presentare. Scrive a tal proposito Alessandro Frigerio, giornalista di Storia in Network, queste parole. Sono illuminanti le belle pagine sulla storia del battaglione Bozen decimato nell'attentato di Via Rasella, di cui Baratter fornisce una ricostruzione che mette fine a troppe verità di comodo. Permesso. Qualcuno potrebbe chiedermi, perché riaprire a tanti anni di distanza la questione? Rispondo, perché ne ho fatto una ragione di principio, confrontandomi con la mia coscienza. Lo ho fatto perché volevo capire fino in fondo cos'era accaduto davvero quel giorno a Roma. Io non mi sono mai accontentato della solita frase ricorrente, secondo cui per via Rasella, quel 23 marzo del 1944, transitava un plotone di SS di Bolzano. Non capivo perché nessuno avesse mai voluto interrogarsi sul motivo per cui quel gruppo di soldati della provincia di Bolzano fosse finito per le vie di Roma. Avrei voluto per completezza disporre di maggiori informazioni su quei sudtirolesi. Non riuscivo a trovare quelle notizie che intanto mi incuriosivano. Quelle ufficiali, in cui mi ero imbattuto, non accontentavano affatto la mia curiosità. Quel fitto silenzio nei testi circa la storia di uno dei due protagonisti dell'attentato mi insospettì non poco, trattandosi oltretutto di un fatto sul quale la letteratura ha dedicato un numero assai elevato di studi e riflessioni. Tutto ciò mi ha invogliato a scavare, a volerne sapere di più e infine a trovare molte cose che non quadravano e che forse dovevano essere chiarite già da molto tempo. Quello che è venuto alla luce e che invito a leggere nel libro mi ha convinto una volta di più che lo storico non deve accontentarsi delle ricostruzioni ricorrenti, deve mettere le cause e gli effetti alla prova dei fatti, con scientificità e rigore. Lo storico deve porre sempre un dubbio alla sua coscienza, mettere in forse anche se stesso per far emergere il meglio della sua analisi. Solo così il ricercatore e lo scrittore potranno dire di aver fatto un servizio onesto alla storia e ai lettori. Questo è quello che credo di aver fatto io con questo libro, anche se non spetta a me ovviamente giudicare. Con dei puntuali riscontri alla mano ho cercato di dare in questo libro una risposta forte e onesta, rispettando chi ritiene che la storia, quella con la S maiuscola, debba essere raccontata e rappresentata non attraverso verità faziose di comodo, ma con esposizioni attendibili e plausibili. Per quanto riguarda il contributo di questo lavoro alla ricerca storica, credo di aver fatto tesoro di tanti lavori e studi, come ho già detto, che sono stati realizzati in questi anni dalla storiografia su tirolese e da quella trentina, scrivendo un libro che non mancherà di favorire la nascita di nuovi approfondimenti su molti temi poco indagati del biennio 43-45. Spero vivamente che in futuro sia dato più spazio a tanti giovani ricercatori che in alcuni casi faticano a far emergere i propri studi, le proprie capacità, le proprie competenze, solo perché non disponibili a rinunciare alla propria imparzialità e a subire le pressioni di certe elite politiche e culturali. Voglio concludere questo mio intervento, prima di lasciare la parola al professor Ais, ricordando una delle ragioni forti di questo libro. Credo che esso segni un passo importante grazie al quale la storiografia regionale potrebbe sforzarsi di rompere il proprio guscio culturale e confrontarsi verso l'esterno. Ma non solo. La storia che è raccontata in questo libro ricompone i molti drammi che in mezzo secolo segnarono così profondamente questa terra di confine. Per alcuni protagonisti di allora può essere la riapertura di una ferita mai rimarginata. Questo libro, tuttavia, in una fase molto delicata, in cui talvolta sembra venga messo in discussione il significato stesso del concetto di autonomia regionale, evitando peraltro anche un confronto serio su base storiche e culturali, permette di ribadire verso l'esterno il senso profondo della specificità di questa terra, rendendo partecipe della nostra storia anche chi non vive in Trentino Alto Adige e diffondendo una consapevolezza, l'importanza di conoscere, salvaguardare e migliorare questa realtà nel nuovo scenario europeo che ci attende. Concludo ricordando che lo storico non è altro che un interprete del tempo e degli avvenimenti. Una delle soddisfazioni più grandi è quando i lettori ringraziano per ciò che gli ha scritto, per quello che è riuscito a trasferire e comunicare attraverso le sue parole. Credo per questo di poter dire che la storia è una disciplina meravigliosa, grazie alla quale possono incontrarsi e fondersi valori come umanità, passione, ricerca di un'equa verità. Ritengo che gli storici abbiano un compito difficile, ma carico di speranza, ricomporre l'orrore delle guerre e la tragedia individuale di caduti e di dispersi senza retorica, senza reticenze, senza distinzioni, per divulgare la conoscenza e costruire una speranza di pace. Grazie. Bene, allora io cercherò di